alcuni santi concedi ai miei guerrieri. Anno, potato. Vengo nei piedi, e mi chiamo fortunato di potervi offrir una bottiglia. Obbligato, io sono già per la famiglia.